La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali come ogni sabato alle 18 o poco dopo per raccontarvi tutto il cinema che c'è su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, una rosa purpurea densa questa settimana perché abbiamo tanti film, alcune interviste e personaggi davvero eccezionali che ci aspettano qui su Radio 24 per parlare della settimana cinematografica e non solo, settimana che veramente è stata dominata dai dinosauri perché stanno spopolando al box office, non solo italiano, quelli di Jurassic World, ne parleremo fra poco. Prima però fatemi salutare Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno a tutti. Buongiorno, hai visto che siamo stati buoni profeti con Jurassic World la settimana scorsa, è andata in maniera incredibile, 5 milioni e mezzo di incasso nello scorso weekend in Italia, solo nello scorso weekend, un film che sta continuando a incassare 400-500 mila euro al giorno e che negli Stati Uniti nello scorso weekend ha portato a casa qualcosina come 204 milioni di dollari. E insomma, davvero non ci aspettavamo questo exploit clamoroso. Questa voglia di dinosauri, Boris, no? Che è tornata a popolare le nostre sale, ma mi pare di capire le sale di tutto il mondo. Beh, no, sono stati facili profeti, nel senso che non era difficilissimo comprendere che era veramente un mix perfetto per farsi piacere davvero universalmente, sia a livello di generazioni sia a livello di pubblici di diverse etnie e paesi. Probabilmente l'estate non è un periodo di uscite straordinarie di questo peso, anche altrove, da noi esageriamo, ma anche altrove non ce ne sono come nelle altre stagioni, e questo ha aiutato. Poi secondo me i dinosauri operano su di noi, quel tipo di mostri operano su di noi qualcosa di atavico e anche inspiegabile. Pensiamo alla leggenda del mostro di Loch Ness, no? Che cos'è se non un dinosauro acquatico quasi? Ancora la seguiamo, ancora ci affascinano, non c'è niente da fare, i dinosauri ed extraterrestri operano su di noi qualcosa di magico. E allora, aspettando gli extraterrestri a questo punto, dopo i dinosauri, noi invece dobbiamo accontentarci di Jeremy Renner, che non è né un extraterrestre né un dinosauro, in un film che ricalca un pochino quello che è l'andamento classico, un po' della spy story, un po' del film di inchiesta giornalistica. Stiamo parlando della Regola del Gioco, il primo film di questa settimana di cui vogliamo parlarvi. Hola. Gary Webb, San José Mercury News. Il mio fidanzato è in prigione per traffico di cocaina. Ha portato 4 tonnellate di cocaina nel vostro paese per conto del governo degli Stati Uniti. Può ripetere? È una delicata questione di sicurezza nazionale. Sicurezza nazionale e crack nella stessa frase. Lei non immagina in cosa si sta cacciando. Diranno che è schizofrenico, che è un bugiardo, un omosessuale. E la sua parola contro la loro. Pensavo che il mio lavoro fosse dire la verità, perché gli altri potessero decidere quello in cui credere. Ascesa e caduta di Gary Webb, premio Pulitzer per un'inchiesta giornalistica che ha svelato, squarciato il velo sulle ipocrisie e sulle bugie che lo Stato, che l'amministrazione americana aveva messo sul traffico di droga con i paesi del Centro America. Gary Webb capì tutto questo, lo scrisse, fu un boom giornalistico clamoroso, ma come insomma insegna la storia, quando sei portato molto in alto è il momento giusto per farti cadere. E da quel momento in poi per Gary Webb cominciò l'inizio della fine, cominciò la discesa, cominciarono gli attacchi, cominciò la famosa macchina del fango, quella per dire che sì, tutto sommato forse questo giornalista non aveva visto proprio così giusto, che l'amministrazione americana non aveva tutti quei torti, che in fondo nella sua vita, nella vita di Gary Webb c'erano tante piccole pieghe, come se vai a vedere nella vita praticamente di tutti. Fu davvero un momento drammatico raccontato in questo film da Michael Questa con Jeremy Renner nei panni del giornalista premio Pulitzer, Paz Vega, Michael Sheen, Ray Liotta, Andy Garcia, una serie di ruoli cameo di fianco. Film solido, dicevo, Boris, che ripercorre in pieno, magari senza innovarla troppo, la strada dei grandi film di inchiesta giornalistica americani. Assolutamente sì, film solidissimo da tutti i film al presidente, sia film sul giornalismo sia i film spionistici come Tre giorni del Condor, perché poi i due grandi sentieri narrativi sono CIA e l'ossessione per una stampa libera, che rende, secondo me, gli Stati Uniti, al netto di tantissimi difetti che stiamo vedendo purtroppo anche nell'attualità, un grande paese, un paese dalle grandi ambizioni. Cioè il fatto che il giornalismo debba essere il cane da guardia del potere qui è portato alla massima potenza. Il problema è che il cane da guardia del potere può essere avvelenato, può essere alimentato con delle polpette avvelenate e può essere schiacciato dal potere stesso. La forza di Kill the Messenger, che non so perché in Italia viene tradotto con La regola del gioco, è tutta qua. Non c'è la catarsi di Tutti gli uomini del presidente o di tanti altri film sul giornalismo, non c'è la voglia di far capire che alla fine la giustizia trionfa. Qui siamo posti di fronte all'ingiustizia del sistema del potere, al modo darwinista in cui funziona il nostro mondo. Se sei più grosso, se sei più potente, alla fine puoi ricevere un colpo mortale, puoi ricevere un colpo allo stomaco, ma verrai ucciso dalla persona o comunque verrai schiacciato dal sistema che hai attaccato. E quella di Gary Webb è una storia esemplare di tutto quello che sono stati gli Stati Uniti nel dopoguerra, in particolar modo. È una storia esemplare che viene raccontata in maniera, come dici tu, molto solida, forse con qualche piccolo inciampo nella seconda parte, perché davvero il materiale è estremamente complesso, e però spesso tutto questo viene insomma coperto dalle straordinarie interpretazioni, in particolare di Jeremy Renner. E purtroppo la storia di Gary Webb è quello a cui si attaccano tutti i complottisti per raccontare lo strapotere americano, quello che la CIA fa a quel giornalista e che noi scopriamo fin dove può spingersi, sostanzialmente giustifica ogni teoria che poi è arrivata prima e dopo su qualsiasi altra malefatta dei servizi segreti, in questo caso appunto addirittura lo spaccio di droga per finanziare una controrivoluzione. È un film interessante, un film che poteva essere forse ancora più bello, perché poteva volare, decollare nella seconda parte, ma vuole rimanere invece attaccato al soggetto di ferro, vuole rimanere attaccato al messaggio, non vuole uccidere il messaggio. E forse anche giusto così, perché è davvero qualcosa di fondamentale anche a livello di memoria storica e memoria collettiva, tenere presente chi fosse Gary Webb e cosa rappresentasse. Quindi va bene così. Va bene assolutamente così, questa è La regola del gioco. Del resto, Boris, rimani con noi, perché fra poco, dopo La viabilità, parliamo di un film che sta rivitalizzando un po' tutto il pubblico dell'horror. Si intitola Unfriended. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La rosa purpurea. Eccoci ancora insieme, e allora abbiamo annunciato Unfriended, il film horror. Ho detto che sta un po' rivitalizzando il pubblico di questo genere, perché dopo Jurassic World in classifica in questi giorni, il film che sta andando meglio fra quelli che escono questa settimana è proprio Unfriended, che si sta muovendo molto bene in sala. Un film, dicevo, assolutamente di genere horror mockumentary, cioè finto documentario, un pochino girato con quella tecnica un po' grezza che aiuta a entrare un po' nel clima. Recito: durante una video chat notturna, sei amici del liceo ricevono un messaggio da Skype da una compagna di classe che si è uccisa esattamente un anno prima. Inizialmente pensano che si tratti di uno scherzo, ma poi si rendono conto che hanno a che fare con qualcosa che non fa parte di questo mondo e che li vuole morti. Dimitri, chi è il tuo amico? Ma chi è? Ho cercato di buttarlo fuori. Non possiamo liberarcene? Non lo so, ma è qui dall'inizio. Scommetto che è solo un glitch. Beh, il glitch ha scritto un messaggio. Che dite che può essere? Questo è l'account di Laura. Chi hackerà l'account di una morta? Potrebbe essere Laura. Dai ragazzi, chi ha postato il video? Non sono stato io. Beh, uno di noi è stato. Chi c'è? Chiudi la porta! Chiudi la porta! Nasconditi! Perché mandi questo video? Io stacco. No, ti ucciderà! Insomma, una chat dalla quale è difficile uscire, Boris, pare. È una chat in cui è difficilissimo uscire, è un esperimento cinematografico davvero interessante. Se vogliamo, si chiude il cerchio che era iniziato con The Blair Witch Project, era forse proseguito con tanti esperimenti di questo tipo, penso anche a Paranormal Activity che invece utilizzava una telecamera interna e adesso arriva a Skype, perché questo è un film, e preparatevi quando vorrete andare a vederlo, tutto girato con schermate di computer, con schermate Skype, e che quindi riscrive inevitabilmente la grammatica cinematografica come la conosciamo adesso. Film molto interessante a livello visivo, a livello di linguaggio cinematografico. 80 minuti che raccontano una conversazione plurima su Skype in tempo reale, in cui tutti gli stratagemmi visivi e narrativi vengono declinati attraverso questa chat ormai famosa, con cui telefoniamo, con cui ci scriviamo, con cui ci teniamo in contatto anche con persone a migliaia di chilometri di distanza, e che appunto i flashback sono video postati in conversazioni private o in conversazioni pubbliche, e che appunto in una conversazione pubblica tra amici nata per ricordare una tragedia che hanno vissuto, si insinua qualcuno che dice di essere la vittima. Adesso non vi diremo qual è chiaramente la soluzione della storia, ma da Unfriended nasce una storia molto interessante, nasce un racconto molto interessante, perché non vuole scimmiottare il linguaggio giovanile, vuole raccontarlo in tutte le sue sfaccettature, vuole fare un film, perché è un vero e proprio film, non è un trucco. Unfriended ha la dignità di un'opera cinematografica a tutto tondo, di un film di genere a tutto tondo, perché come dicevi tu è un horror vero, dove ci sono delle morti, dove ci sono delle confessioni, dove, guarda un po' come nella regola del gioco, c'è il segreto, c'è ciò che non si ha il coraggio di dire, c'è l'oscurità della vita di ognuno di noi messa in gioco per raccontare una storia, e sul fatto che nessuno di noi può essere tranquillo, perché nella vita di ognuno di noi c'è qualcosa che vuole essere nascosta. Nasce alla fine un'opera che a mio parere rappresenterà un punto di non ritorno. Probabilmente sarà difficile fare un film di questo genere, appunto del genere Blair, non credo che sia un caso che la vittima si chiami così, perché davvero c'è una ricerca visiva e di sceneggiatura molto profonda, molto rivoluzionaria, che difficilmente permetterà ad altri di essere così efficace. E alla fine non posso che dire che è forse il film della settimana, ma anche il film dell'anno, e forse di questa epoca storica e cinematografica, perché difficilmente riusciremo a raccontarla meglio, raccontare meglio la comunicazione personale e collettiva come è stata raccontata in Unfriended. E in questo senso è difficile fare una recensione cinematografica, probabilmente dovremmo fare una recensione di come è cambiato il mondo e di come è cambiato il modo di comunicare in tutti questi anni, e soprattutto negli ultimi due decenni. Quindi non posso che promuovere questo film, anche perché devo dire, a livello attoriale, nonostante non ci sia nessun grande nome, c'è una grandissima qualità, perché è difficilissimo essere espressivi attraverso i tanti paletti che ci sono in una scelta così radicale visivamente, e riesce benissimo ancora di più a livello registico, perché i paletti più limitanti forse sono proprio per il regista, che invece riesce poi ad abbatterli e a raccontarci qualcosa che va oltre. Quindi Unfriended è veramente da promuovere, veramente interessante, ve lo consiglio. Regista che è appunto Levan Gabriadze, 46enne di Tbilisi, Georgia, che come dire ha un passato di film, di commedie anche un po' grottesche nel suo paese, che con questo film conquista un pochino l'America. Tra l'altro, pensate, un film girato in 16 giorni in una sola casa, con tutti i membri del cast e quindi della chat in una stanza diversa, quindi come dire, anche fare di necessità virtù e saper comunque esprimere uno spettacolo cinematografico importante. Questo è Unfriended, uno dei film, delle novità in sala di questo fine settimana. A questo punto noi cominciamo a giocare insieme, però, perché come sempre non possiamo esimerci dal regalarvi il grande cinema in Blu-ray. Sentiamo la prima traccia del film misterioso di oggi. Appagano. Chissà, appagano, ma davvero Gesù Cristo. La vogliamo far risentire, guarda, così adesso Carmelo ci fa risentire tutto, Appagano. Se la pagano per davvero Gesù Cristo. Ecco, perché c'è un accento molto forte, voglio dire, che potrebbe essere un indizio importante per voi che state ascoltando per individuare di che film si tratta e provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sono qui che vi aspettano. Fra poco, chiaramente, avremo un'altra traccia per potervi aiutare. Allora andiamo avanti ancora con il cinema, con le novità in sala. Parliamo di Diamante Nero, cambiamo decisamente genere con questo film di Céline Chammat, una storia che entra in uno dei drammi, se vogliamo, che quello è della adolescenza difficile. In certi casi c'è di fondo il bullismo, come è capitato per esempio in Unfriended. A volte c'è invece la voglia di appartenere, di omologarsi quasi a una società che ti dà dei modelli molto forti dai quali è difficile sfuggire. Dalla regista di Tomboy, Diamante Nero, sentiamo la clip. Devi fare quello che vuoi. Dillo, faccio quello che voglio. Vic come Vittoria. Mi sono fermata a guardarvi. Eravate bellissime. E ho pensato che quello era un momento perfetto. E che non l'avrei mai dimenticato. Boris, un film, se vogliamo, sul superamento della linea d'ombra femminile, ma anche un film su quanto i modelli estetici contino nella nostra società. Assolutamente d'accordo. Raccontato da Céline Chammat, che, fatemelo dire senza esagerazioni, ma con le debite proporzioni, forse si candida ad essere una nuova Truffaut, perché veramente da Tomboy a Diamante Nero mi sembra che siano veramente rarissimi i registi e le registe che riescono a raccontare questa linea d'ombra con questa lucidità, con questa empatia, con questa fortissima emotività. In questo caso siamo di fronte alla storia di Mariam, che ha 16 anni, va male a scuola, ha un universo maschile estremamente poco educativo, maschilista, violento, pericoloso, e decide di reagire a quello che non ama, a quello che non vuole, cioè la vita della madre, e allo stesso tempo decide però di reagire anche a questo universo maschile, e lo fa un po' come riuscì a raccontare Laurent Cantet in Foxfire, meno Sofia Coppola in Bling Ring, e forse, per chi lo ricorda, con lo stesso criterio con cui fece Marielle Coulin in Dessert Fille, decide di nascondersi e allo stesso tempo affermare se stessa in una realtà totalmente femminile, una realtà molto chiusa, molto esclusiva anche per quanto riguarda il colore della pelle, che rappresenta di fatto una nuova famiglia, una famiglia con le sue regole anche pesanti, che in qualche modo sono anche riprese da quello che lei ha imparato. Céline Chammat lo racconta con quello stile asciutto e allo stesso tempo però ruvido, cattivo anche, che ci pone di fronte a una storia che potrebbe essere molto più consolatoria, ma che consolatoria in realtà non lo è mai. Ed è davvero interessante il percorso di crescita registica e cinematografica di questa regista, perché è davvero difficile raccontare l'adolescenza senza entrare negli stereotipi o senza ancora di più uscirne, e farlo però rimanendo attaccati all'attualità. In questi giorni stiamo vivendo con profondo dolore il dramma dell'adolescenza declinato a livello mondiale, non solo francese, ma Diamante Nero in fondo racconta anche qualcosa che abbiamo vissuto nel retroterra dei killer di Charlie Hebdo, e quindi, pur essendo un film di finzione, un film puramente di finzione, ci dice tantissimo su quello che siamo in questo millennio, in questo secolo, e lo dimostra forse proprio con quel Diamonds di Rihanna, che ci tiene attaccati profondamente alla realtà, all'attualità. Bravissima Khadija, spero di dirlo al meglio per quanto riguarda la pronuncia, Khadija Touré, che è davvero un esordiente di un'espressività straordinaria, e anche qui la Chammà dimostra di essere bravissima nelle scelte, perché sceglie visi pazzeschi e appunto in uno stile di regia che è davvero unico sia nelle scelte delle storie sia nelle scelte visive. E allora questo è Diamante Nero di Céline Chammà. Noi andiamo ancora dalla linea alla regia, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Giancarlo Soldi per raccontarci il suo Tiziano Sclavi in un film dal titolo molto curioso Nessuno Siamo Perfetti, e poi dopo un po' ci sarà con noi Ted Neely, il grande Jesus dell'omonimo musical Jesus Christ Superstar. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, e come promesso vi parliamo di un film e di un personaggio che è veramente ha segnato e ha marchiato a fuoco, direi, la storia non solo del fumetto, che è quella in cui si è espresso di più, ma quella proprio dell'espressione di un genere anche per quanto riguarda la cultura italiana. Stiamo parlando di Tiziano Sclavi, per tutti il creatore, l'inventore di Dylan Dog, un uomo riservato, un uomo non facile, un uomo che è stato spesso, quasi sempre, dietro le quinte, che si è concesso poco e che ha messo dentro il suo personaggio, diventato un fumetto, che dire di successo è poco, insomma, un fumetto influente, un fumetto seminale in qualche modo, ecco, ha messo dentro quel personaggio tutto se stesso per farlo arrivare a noi. Adesso ci prova a farlo arrivare a noi con del materiale davvero davvero interessante e in parte anche esclusivo. Giancarlo Soldi, che è in collegamento con noi, regista di Nessuno Siamo Perfetti, un bel gioco di parole per raccontare l'imperfezione. Ciao Giancarlo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao, grazie a voi, è un onore essere finalmente lì con voi. No, anche perché quando hai fatto l'altro film, Nero, noi non c'eravamo, quindi come dire, eravamo piccoli e non eravamo ancora nati. E invece stavolta sono contento di poter incrociare ancora il tuo percorso. Allora, sentiamo insieme intanto una clip del film, così ci ambientiamo e poi ti faccio un paio di domande. Ho sempre detto che io non racconto storie, racconto il modo di raccontare storie. E poi ho parlato di me. Nella notte fredda e scura, chi ha paura, chi ha paura? Ha paura l'assassino di incontrare il suo destino. Penso che tutte le donne abbiano voluto essere amate da Dylan Dog. La maggior parte delle cose che ho scritto fin da ragazzo le scrivevo da ubriaco. Bravo artista copia. Un grande artista ruba. Giancarlo, hai avuto il privilegio di stare con Tiziano in parecchi momenti della tua vita per tanto tempo. Che uomo è Tiziano Sclavi? Tiziano è una persona amabile, tanto che nonostante la nomea che ha di non rilasciare interviste, per affetto comunque mi ha lasciato girare. Qui già questo è una cosa molto bella, insomma, da amico a amico l'ha fatto. E la cosa bella è che io l'ho fatto per riconoscere il suo talento, cioè in modo che tutti sapessero chi era quella persona che ha creato quel personaggio che tutti abbiamo amato, soprattutto il pubblico femminile poi, perché quella è la grande novità di Dylan, che ha sdoganato un pubblico che prima non esisteva quasi. E dove nasce la poetica di Tiziano Sclavi? Nel veramente dentro di lui, tutto Tiziano è Dylan, cioè lui è non solo vestito esattamente come Dylan, ma tutte le cose della sua vita sono riversate nel suo fumetto. Quello che io ho voluto fare è veramente parlare del Tiziano autore, non mi interessava tanto fumetto che insomma, ma lui come visionario creativo. Nessuno Siamo Perfetti è proprio questo, è la storia di uno dei più grandi creativi del Novecento, e non lo dico solo io, ma lo dice insomma anche Eco e tutti gli estimatori, che ci ha veramente influenzato nel sociale, ci ha veramente fatto partecipe, ci ha accompagnato al cimitero, questa è la cosa pazzesca, cioè mentre Corto ci accompagnava sui mari del capito, meravigliosi del sud, Tiziano ci ha accompagnato al cimitero e noi ne siamo stati affascinati. Ecco, quanto è costato Dylan Dog? Quanto è costato, no, non tanto il film, quanto è costato Dylan Dog a Tiziano Sclavi? L'impressione che dal tuo film, esatto, che ci abbia messo talmente dentro se stesso che a un certo punto si è prosciugato. Sì, lui si è dato veramente tanto, con una grande responsabilità. Sapeva di avere milioni di lettori e soprattutto sapeva che coniugare la violenza con l'ironia era una cosa difficile e lui si è responsabilizzato di questo. Ti faccio un'ultima domanda, Giancarlo. Il film uscirà con una sorta di tour, cioè non esce tutto insieme nelle sale di tutta Italia, ma piano piano tocca le migliori città. Quindi noi vogliamo consigliare al nostro pubblico di andare a vedere Nessuno Siamo Perfetti. Tu raccontaci come. Ok, guardate, sono già in giro, in tournée, proprio come se fosse una cosa molto rock and roll, e lunedì sera sono a Napoli, poi sarò a Bergamo, il 25 a Milano, il giorno dopo Cremona, e così per 25 città. Per cui vi aspetto. E quindi guardate su internet, ovviamente, scoprirete il tour di Nessuno Siamo Perfetti. Grazie a Giancarlo Soldi. Grazie, scusate i disturbi, ma sapete, Nessuno Siamo Perfetti, neanch'io. Ciao, ciao. È giunto il momento di giocare ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. La campagna non ti piace. A scuola alla sesta. Ma qualche cosa nella vita andava pure con bene, o no? A parte sparare i saracinesche di barra, voglio dire. E allora, la rosa purpura @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo privato. È un film di cui in questi giorni si è parlato davvero molto per un motivo ben specifico. Lo sveleremo la prossima settimana con i vincitori. Più tardi invece vi faremo ascoltare quello su cosa era successo 7 giorni fa con il nostro game. È arrivato il momento di parlare con Boris Sollazzo dell'ultimo film tra quelli che escono questa settimana di cui vogliamo occuparci. Si intitola Teneramente Folle, è diretto da Maya Forbes, ha nel cast un attore che a me piace sempre molto, Mark Ruffalo, con Zoe Saldana, per una storia, una commedia diciamo familiare, oppure una dramedy, come dicono gli americani, la storia di un padre che si ritrova a perdere il lavoro, non riesce a mantenere la famiglia, e a quel punto una delle figlie parte per studiare nella East Coast tra New York e Boston, e partirà una seconda vita, una nuova vita per questa coppia e per queste ragazze. Nel 1967 diagnosticarono la sindrome bipolare a mio padre. Se ne andava in giro per Cambridge con una barba finta. Lì incontrò mia madre. Così si sposarono ed ebbero me e mia sorella. Eravamo felici. Purtroppo non durò per molto. Non sono malato, io sto bene! È una cosa terribilmente imbarazzante! Volete che vengo a prendervi dopo scuola? No! Sai, credo che se tu smettessi di bere e prendessi il litio, mamma ti farebbe tornare a casa. Sai cosa mi ha detto Fate l'altra sera? La cosa bella di papà è che lui c'è sempre per noi. Tratto da una storia vera, autobiografia dell'infanzia di Maya Forbes, il film, appunto, Boris, ricalca quella crasi che ho citato prima, quel dramedy, no? Perché ci sono vene di commedia, l'avete sentito anche dalla clip, ma in un ambiente narrativo abbastanza drammatico. Assolutamente sì, è un film super autobiografico, se si pensa che Cameron Stewart, appunto, ha una nonna Stewart, che amministra con grande parsimonia i fondi multimiliardari della sua famiglia, ovviamente il cognome della regista è Forbes, come tu hai ricordato, già con il cognome ricorda che cosa vuol dire essere miliardari, visto che fanno anche una classifica ogni anno per ricordare a tutti chi ha più soldi, e racconta di fatto la storia sua e della sorella China, che sono cresciute con il padre proprio per permettere alla madre di agguantare questa seconda vita, che altro non è che il tentativo da parte della madre stessa non tanto di migliorare se stessa, ma di permettere alle figlie di avere l'occasione che forse lei ha perso attraverso il matrimonio con un marito tanto amato quanto complesso e difficile da gestire, amarlo così tanto da doverlo allontanare e poi riavvicinare in un momento fondamentale, cioè decidere che comunque, nonostante la sindrome bipolare, fosse in grado di crescere le loro figlie. E devo dire che Teneramente Folle non è forse il titolo migliore italiano per questo film, ma il titolo migliore forse per recensirlo, perché chiaramente racconta benissimo Cameron Stewart, racconta benissimo un Ruffalo che riesce in un personaggio che va fuori dagli stereotipi che spesso gli affibbiano, ma racconta anche la scelta Teneramente Folle di Zoe Saldana di puntare comunque sui sentimenti, e punta sui sentimenti anche la regista, perché chiaramente è molto protettiva nei confronti del padre ormai deceduto, quindi ci offre una storia che ci fa vedere più la parte tenera che quella folle, ci mostra più la potenzialità del povero Cam che la sofferenza che probabilmente lei ha avuto, e anche perché essendo una donna dall'anima profondamente commerciale che probabilmente gli viene dalla famiglia, vuole regalare al pubblico qualcosa più legato all'intrattenimento che alla pesantezza di un racconto sulla malattia mentale. Di fatto il mix riesce, perché ci si intenerisce, ci si avvicina in questa famiglia, in alcuni casi si è proprio in mezzo a quella famiglia, si ha la voglia di dire a Cam di stare attento, alle figlie di capirlo, alla moglie di non mollare, e si esce con il cuore da una parte più leggero, perché come il miglior cinema della nostra infanzia ci racconta che tutto è possibile, e dall'altra più pesante, perché la malattia mentale è una realtà che soprattutto da quando il film è ambientato, cioè in Massachusetts alla fine degli anni 70, è diventata forse una delle tematiche più importanti della nostra società. Non è un film straordinario, è un film anche ordinario nelle scelte visive, nelle scelte di sceneggiatura, ma è un film che va visto secondo me in famiglia per ricordarsi e raccontarsi chi siamo, al di là di tutti gli archetipi sociali che spesso ci schiacciano, e quindi a mio parere alla fine funziona. Non so se l'estate mi rende più buono, ma anche questo film l'ho apprezzato. Ebbene, bene, no, comunque lo ripeto, io quando c'è Mark Ruffalo il biglietto lo pago. Allora Boris, io ti saluto, ci diamo appuntamento la prossima settimana per raccontarci ancora un po' di film, perché ci sarà un'altra uscita abbastanza abbondante anche fra 7 giorni, e quindi ti aspetto qui con La Rosa Purpurea. Io ci sarò, alla prossima settimana, e buon cinema. Di abilità, fra poco torniamo insieme e sarà con noi niente meno che Jesus Christ Superstar Ted Neely. La rosa purpurea. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. La voce sempre da brivido, davvero da pelle d'oca, di Ted Neely, che interpreta Gesù in Jesus Christ Superstar. Lo ha fatto per una vita, lo ha fatto nel film di Norman Jewison, lo fa da oltre 40 anni sui palcoscenici di tutto il mondo, e ormai Milano e l'Italia sembrano diventati la sua seconda patria. Dall'autunno scorso è tornato il grande show a Milano, poi ha girato l'Italia, adesso è tornato al Teatro Nuovo, sarà fino al 28 di giugno al Teatro Nuovo di Milano, per poi andare a Messina, e quest'autunno si prepara un'altra nuova discesa in Italia di Jesus Christ Superstar con Ted Neely protagonista. È un'occasione che nella vita davvero non bisogna farsi sfuggire, infatti io l'ho già visto 6 volte. Detto questo, Ted Neely era già venuto ospite alla Rosa Purpurea quest'autunno, prima degli Arcimboldi, adesso lo abbiamo ritrovato in un pomeriggio lo scorso 9 giugno, proprio dove abbiamo raccontato insieme a te, da un pubblico vastissimo, alla Libreria Mondadori di Milano, quello che è il mondo di Jesus Christ Superstar, e io ho voluto regalarvi questo pezzettino che adesso andiamo a ascoltare. Sono 2 minuti in cui Ted racconta cosa accadde il giorno in cui il film uscì al cinema all'inizio degli anni 70. I don't know if you know what happened when Mr. Jewison, our director of the film, finished shooting the film and realized that we were being protested all over the world for the show Jesus Christ Superstar. Non so se sapete quello che ha fatto il nostro regista Jewison dopo che è stato realizzato il film. Sapeva che poteva avere comprensione o un completo rigetto da parte del Papa. Il Papa del tempo era Paolo VI. Riuscì ad avere un incontro con lui. Si sono seduti insieme e hanno guardato il film. Dopo averlo visto, il Papa disse a Jewison: Sir, I love your film. Sir, amo questo film per molte ragioni, ma principalmente perché guarda Gesù come essere umano. Inoltre credo che la musica sia un'altra cosa importante, perché potrà raggiungere tutti nel mondo. Non ci sono dialoghi, ma sono le canzoni che tutti canteranno, che faranno avvicinare le persone alla fede. Un grazie quindi al Papa, perché ha fatto sì che le persone venissero a vedere il film. Il prodigioso Needy Scream, come viene definito questo acuto in Getsemani da Jesus Christ Superstar, ricordo ancora Ted Neely alla Rosa Purpurea fino al 28 giugno al Teatro Nuovo di Milano con il musical, appunto, Jesus Christ Superstar. A questo punto noi andiamo avanti perché dobbiamo parlare risolvere il game della scorsa settimana. Siamo un'agenzia di intelligence internazionale indipendente che opera un altissimo livello di riservatezza. E allora si trattava di Kingsman, questo era il film con cui abbiamo giocato 7 giorni fa, lo hanno indovinato per primi Alessandra Vittani di Como e Roberto Telemann di Riva del Garda, saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray di Kingsman che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, Kingsman, ultima regia del Matthew Vaughn di Kick-Ass, che già aveva ibridato il mondo dei supereroi con forme infantili, cartunesche ed esasperate. Qui racconta dell'assurdo processo di formazione di un cafone di periferia assoldato da impeccabili agenti segreti molto british, tra cui ovviamente Colin Firth. È un film spionistico, ma è anche un giocattolo ultra pop fatto di contrasti, eccessi, parodia, pura evasione e tanto entusiasmo. Il Blu-ray è impeccabile per qualità tecnica, anche se gli extra sono contenuti. Oltre alla galleria fotografica e il trailer, due approfondimenti, la featurette Kingsman Secret Service esce allo scoperto e l'approfondimento dalla vignetta allo schermo, visto che il film è l'adattamento di una miniserie a fumetti della Millar World, che è la stessa casa di produzione di Kick-Ass. Andando invece a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana, Riso Amaro, che vale sempre la pena vedere o rivedere, martedì 23 su Rai 3 alle 10 del mattino. Sì, diciamo che le reti TV in estate si prendono una sorta di vacanza e si limitano a qualche esperimento e lasciano spazio al cinema, che per noi ovviamente è tutt'altro che un tappabuchi nel palinsesto. E quindi sì, appunto, Riso Amaro su martedì 23 su Rai 3 alle 10. E tra i capolavori del neorealismo cinematografico che quest'anno, come La Liberazione, compie 70 anni, c'è sicuramente questo film di Giuseppe De Santis, dove il territorio del Vercellese sembra il West dei film americani, dove l'indagine sulle rovine dell'Italia e della sua umanità ha i toni vigorosi del realismo socialista e il senso del racconto del cinema hollywoodiano, che sono i due poli in cui si è sempre esaltato il neorealismo spettacolare di questo grande autore, forse oggi un po' dimenticato. E nella settimana in cui esce in sala Diamante Nero, prima Boris Sollazzo ha detto una sorta di film che dà di Céline Chammat una lettura quasi truffottiana, eccoci con Finalmente Domenica, mercoledì 24 su Rai 3 alle 16. Sì, è l'ultimo film di François Truffaut che sarebbe morto l'anno successivo nel 1984 ed è per il regista un ritorno a una commedia nera già frequentata 23 anni prima con Tirate sul pianista. È un altro film d'amore e di morte stampato nello straordinario bianco e nero di Nestor Almendros. È un film sui toni del giallo rosa hollywoodiano e animato dal carisma di Fanny Ardant, la signora della porta accanto, che è compagna e musa del regista, e questo film esalta sia nella sua bravura attoriale sia contemplando tutte le sfumature e gli umori della sua bellezza. Un film davvero pieno di grazia, questo. Che non potrete perdere, mercoledì 24, Rai 3 alle 16. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Io vi auguro una buona settimana, un buon weekend al cinema e ci risentiamo sabato prossimo.